GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da San Giorgio di Nogaro, Legambiente ribadisce il no all'acciaieria, equilibrio già delicato, pericoloso, stressare l'area. Rischio ingorgo burocratico sulle stime dei danni da maltempo, a dirlo da Mortegliano, i geometri già oberati di lavoro. Inflazione in discesa nel mese di luglio a Trieste, Udine scende sotto il 6% secondo gli ultimi dati Istat. Ex IMU, ora IA, dimezzata se si affitta casa agli studenti. A Pordenone iniziativa per rimettere in circolo immobili inutilizzati. Fiori senza nettare a causa del meteo, api che muoiono di fame. Dall'auco l'allarme degli apicoltori, a rischio un centinaio di imprese. Il set del film Heads of State si sposta in piazza Unità, cuore di Trieste, off limits per i visitatori, tra curiosità e qualche disagio. 12:31, buongiorno da Anna Vitaliani e Rita Micoli. In regione, per presentare i dati annuali di Goletta Verde, la campagna che monitora la salute delle aree costiere del paese, Legambiente torna ad esprimere la sua totale contrarietà al progetto della joint venture Danieli Metinvest per la realizzazione di un impianto di laminazione a San Giorgio di Nogaro. In un territorio dove il no è scritto su muri, segnali stradali e sulle rotonde, anche Legambiente si unisce alla contrarietà dei comuni della Bassa all'ipotesi della costruzione di un'acciaieria nella zona della Ussacorno, ipotesi su cui la regione non si esprime, ma che è una delle possibilità che valutano Danieli e Metinvest, partner ucraino, che già opera nella zona. Per Legambiente, i 25.000 cittadini che hanno firmato la petizione consegnata in consiglio regionale il mese scorso hanno ragione: il delicato ambiente lagunare inevitabilmente ne risentirebbe anche per via dei dragaggi. Sandro Carnielutti, Legambiente Friuli Venezia Giulia. La laguna è sotto stress. No, voi per pressione del bacino scolante, eutrofizzazione delle acque, poi risalita del cuneo salino, sollevamento e marinizzazione della laguna. Un ambiente sotto stress non necessita di ulteriori situazioni che generano pressioni importanti. Un'acciaieria, per la sua logistica, per i flussi di materiali, per la necessità di dragaggi a bordo laguna, area protetta, è assolutamente incompatibile. Nessuna apertura anche di fronte a garanzie di un impianto green di ultima generazione, mentre un po' a sorpresa arriva la proposta di uno spostamento del progetto a Taranto. Parlare di acciaieria green nei tempi brevi è assolutamente fuori luogo. Giù a Taranto ci sono le condizioni migliori che non in laguna, non ci sono aree protette, sono fondali importanti e c'è bisogno di molta innovazione che Danieli può garantire. Nel pomeriggio i rappresentanti di Danieli incontreranno a Grado i sindaci delle tre località turistiche della zona, Grado, Lignano e Marano. Intanto Legambiente con Goletta Verde ha presentato nell'occasione i dati sul monitoraggio delle acque costiere della regione. Su 10 punti campionati rimane solo la criticità decennale del rio Canale Fugnan a Muggia. Gli altri 9 punti, 5 di mare e 4 alla foce dei fiumi, sono risultati entro i limiti di legge. Andrea Saule, San Giorgio di Nogaro, TGR Friuli Venezia Giulia. Sull'ipotesi di un hotspot per i migranti in Friuli Venezia Giulia, nuovo intervento di Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. La deputata Deborah Serracchiani e lo stesso capogruppo del PD in consiglio regionale Diego Moretti evidentemente hanno letto distrattamente o non capito nel merito la posizione di Fratelli d'Italia, scrive Rizzetto. Abbiamo chiesto approfondimenti mirati, ad esempio al tempo di permanenza degli ospiti, l'accoglienza diffusa, un sistema che ha fallito. Pensare ad un'immigrazione legale ed in buona parte formata per inserire delle quote nel nostro tessuto produttivo è un'altra cosa, e su questo stiamo lavorando, esattamente come riporta il decreto flussi. La destra in Friuli è completamente nel pallone. Alla prova dell'ondata di migranti vengono fuori contraddizioni insanabili e in mezzo si trova il governatore Fedriga, smentito nella linea pro spot e sotto attacco dalla sua Lega ai concorrenti di Fratelli d'Italia, aveva dichiarato Deborah Serracchiani rispondendo al no della Lega Udinese a qualsiasi proposta di hotspot in tutto il Friuli Venezia Giulia. Serviranno tempi lunghissimi per certificare i danni da maltempo. L'allarme arriva dai geometri operativi nella zona di Mortegliano. Il solo accesso agli atti creerà un ingorgo burocratico, spiegano. Nel comune di Mortegliano e nei comuni limitrofi colpiti dall'evento atmosferico del 24 luglio si lavora per la messa in sicurezza dei tetti e per le coperture. Sono ancora 98 a Mortegliano, 225 in tutto il comprensorio. E all'indomani dell'incontro in regione con i rappresentanti degli ordini professionali, i comuni e la protezione civile, sono molte le criticità da superare. Marco Barbina, geometra. Se richiedono queste asseverazioni sugli immobili, bisogna partire da un accesso agli atti al comune. L'accesso agli atti al comune, come in tutti i comuni, richiede un determinato tempo, che possiamo stimarlo minimo una quindicina di giorni. Però, dato il sovraccarico di richieste di accesso agli atti che potrebbe esserci, questi tempi possono allungarsi. Paolo Fabris, assessore alla protezione civile del comune di Mortegliano. Le richieste dovranno essere presentate in comune, certo è che la mole di lavoro su 2.459 prime istanze presentate è talmente elevata che il comune difficilmente sarà in grado di prendersi questo carico, ma ci organizzeremo comunque con la regione per semplificare il lavoro da svolgere. Nell'attesa della decisione da parte del governo sullo stato di emergenza, i fondi regionali ristoreranno con 5.000 euro i privati e con 20.000 euro le aziende colpite. Intanto, chi era coperto da polizza assicurativa si è già rivolto alle compagnie per gli indennizi. Io ho già presentato sia al comune la documentazione che all'assicurazione. Mi hanno garantito i tempi brevi per il risarcimento del danno da parte dell'assicurazione, stranamente. Domani a Mortegliano, vertice con l'assessore Riccardi, la protezione civile e i comuni colpiti, per fare il punto e per discutere delle criticità emerse sulle domande di ristoro. Mortegliano, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La sanità, nuovi spazi dedicati all'osservazione breve intensiva al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara a Trieste. Questa mattina l'inaugurazione. Nuovi spazi, gradevoli all'occhio, ma soprattutto funzionali a gestire la gran parte degli accessi al pronto soccorso di Cattinara. Sono quelli dedicati all'osservazione breve intensiva, OBI, inaugurati all'ospedale triestino. Serviranno per processare i codici associati a patologie di lieve entità, definiti dai colori azzurro, verde e bianco, e che nel periodo estivo, quello con maggiori accessi al pronto soccorso, sono una cinquantina circa. Si tratta di un modello già utilizzato in altre strutture, centrato sul triage, da cui poi si diramano le aree operative, e che, dice Franco Cominotto, direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione di Cattinara, dovrebbe darci soddisfazioni riguardo al processamento dei casi e al controllo del sovraffollamento. Faremo un primo bilancio tra 6 mesi e ci aspettiamo risultati positivi. I posti a disposizione sono 11, dei quali uno per l'isolamento di pazienti con patologie contagiose. La nuova area costituisce il primo stralcio della riqualificazione del pronto soccorso nell'ambito della prevista ristrutturazione del Cattinara, ha spiegato l'ingegner Massimiliano Liberale, direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina. Un intervento da 500.000 euro finanziato da fondi regionali e del Ministero, nell'ambito del Piano Nazionale di Potenziamento dei Pronti Soccorso, definiti HUB, varato a seguito della pandemia di Covid-19. Si tratta, ha concluso Liberale, di un'area che servirà da test anche in vista dei lavori nell'arresto del pronto soccorso, per valutarne i benefici e le eventuali criticità. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Continua a scendere l'inflazione secondo la rilevazione Istat relativa al mese di luglio. A Trieste e Udine scende sotto il 6%. Partiamo da Trieste, il tasso tendenziale che include gli ultimi 12 mesi è del 5,8% contro il 6,1% di giugno. Il tasso mensile è dello 0,2% con un lieve aumento che segna una controtendenza rispetto a giugno, quando i prezzi erano calati dello 0,2%. I prezzi salgono soprattutto nella ristorazione più 1,6% a luglio, mobili, articoli per la casa e trasporti più 0,6%. Segno negativo per le comunicazioni, meno 0,8%. Prezzi complessivamente invariati invece a Udine nel mese di luglio, mentre il tasso tendenziale scende al 5,7%. Anche nel capoluogo friulano sono i servizi di ristorazione a far segnare l'incremento più significativo, più 1,4% nel mese di luglio. Il calo più rilevante dei prezzi si registra nel capitolo abitazione, acqua e elettricità, meno 2,6%. Incentivare la presenza di studenti nella città di Pordenone favorendo prezzi accessibili degli appartamenti. Il Comune ha presentato un protocollo con sgravi fiscali a chi sceglie di affittare agli studenti universitari case lasciate altrimenti vuote. Sentiamo come. Uno sconto del 50% dell'ex IMU, ora ILIA, per chi affitta casa agli studenti universitari a Pordenone. È quanto prevede il protocollo d'intesa elaborato dal Comune della città, con l'obiettivo sia di aiutare gli studenti universitari a trovare casa, sia di rimettere in circolo il patrimonio immobiliare inutilizzato. Come spiega l'assessore all'edilizia Verdi Chizzi, la materia delle locazioni non è di competenza del Comune, ma dello Stato. L'unica leva di intervento a disposizione è allora quella fiscale, con l'utilizzo di incentivi. È uno strumento unico in regione, aggiunge. Il canone non sarà libero però, spiega, e per ottenere l'incentivo il proprietario di casa dovrà utilizzare la tipologia di contratto convenzionato che riguarda gli studenti e che presenta parametri e criteri molto rigidi. Al momento Pordenone conta circa 1.700 studenti, di cui la metà proviene da fuori città. L'obiettivo nei prossimi anni, spiega il direttore del consorzio universitario Zanni, è di arrivare ad almeno 2.000 iscrizioni, un obiettivo importante per una città che, spiega il sindaco Ciriani, mira a diventare un centro universitario di riferimento per rinnovarsi e darsi una rinfrescata, spiega, guardando soprattutto ai più giovani. Pordenone, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La siccità dell'inverno ha stravolto il ritmo delle fioriture, i fiori non hanno nettare e poi pioggia e freddo persistente di quest'estate inducono le api a non lasciare l'alveare. Risultato, le api muoiono letteralmente di fame. Siamo stati a Lauco a raccogliere il grido d'allarme degli apicoltori in regione, a rischio sopravvivenza un centinaio di imprese. Letteralmente morte di fame, 15 famiglie di api, significa 750.000 insetti che a causa del freddo e della mancanza di nettare non sono sopravvissuti. Le vediamo nell'alveare di Orietta Gressani, apicoltrice di Lauco in Carnia. Succede così dall'oggi al domani, migliaia di api morte. E non è una novità, è così da 5 anni, 5 stagioni apistiche sono state molto critiche. Il 2023 è l'anno nero, persa la produzione del 75% per alcuni mieli, addirittura 100% se pensiamo al tarassaco, alla acacia, all'acero. In ginocchio le 100 aziende che vivono di questo in regione. Siamo con Giorgio Della Vedova, tecnico dei consorzi apistici regionali. Siete costretti ad alimentare artificialmente le api con sciroppo e zucchero candito, altrimenti muoiono di fame. Ma lei dice questo è come dare una flebo ad un ammalato, non è salute questa. Sicuramente le api hanno una difficoltà prolungata, che si prolunga nel tempo, perché l'alimentazione artificiale non consente agli alveari di svilupparsi in modo adeguato poi per sopravvivere in condizioni ottimali anche durante la fase autunno-invernale. Lei fa questo mestiere da molto, è cresciuto fin da bambino tra le api, un alveare produceva negli anni 80 un quintale di miele, oggi? E oggi si è scesi parecchio in termini di capacità produttiva, si arriva a produrre dai 15 ai 20 kg di miele di media quando le annate sono favorevoli. Quest'anno probabilmente siamo quasi a zero e in alcuni casi sotto zero, nel senso che l'apicoltore ha provveduto per gran parte dell'anno a nutrire le famiglie per mantenerle in vita. È grave per le api, ma è grave per tutti noi, perché è grazie alle api di fatto che l'ecosistema funziona. Consentono all'uomo di produrre moltissimi prodotti agricoli essenziali nell'alimentazione umana. Diamo ora uno sguardo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla nostra regione, le temperature registrate alle ore 11, Trieste, Udine, Pordenone 24 gradi e mezzo, Gorizia 25 gradi, a Trieste mare poco mosso con temperatura di 25 gradi, Piancavallo 13 gradi e mezzo, Tarvisio 15 gradi, Sappada 17, Forni di Sopra 19, Tolmezzo 21 gradi e mezzo, Montelussario 8 gradi e mezzo, Montezoncolan 10 gradi e mezzo, tornando sulla costa grado 25 gradi, Lignano 25 gradi e mezzo, temperatura del mare 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA, cielo in genere poco nuvoloso, sulla costa a tratti anche sereno, mentre sui monti ci potrà essere qualche maggiore annuvolamento temporaneo e quindi variabilità nel complesso della giornata. Domani cielo sereno, poco nuvoloso con venti di brezza. Autostrade Alto Adriatico ha attivato il bypass virtuale consigliato dai pannelli a messaggio variabile nella A27 e 28 a seguito di un incidente avvenuto poco prima delle 9.30 di oggi. giovedì 10 agosto tra Cessalto e San Stino in direzione di Trieste. Nell'impatto sono rimaste coinvolte 2 auto, 2 feriti lievi. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale della concessionaria e i mezzi di soccorso meccanico. Il traffico risulta al momento bloccato, probabilmente ora si sta sbloccando per consentire l'intervento dei soccorsi. Il reindirizzamento del traffico lungo il bypass è reso necessario per evitare ulteriori code in direzione Trieste, considerato l'aumento dei flussi di traffico attesi nelle prossime ore proprio in vista del ponte di Ferragosto. La cronaca ora dovrà rispondere di furto aggravato il 46enne bulgaro, già noto alle forze dell'ordine, riconosciuto come il probabile autore di un colpo messo a segno in un'auto in sosta a Trieste a inizio mese. L'uomo aveva infranto il parabrezza e rubato 2 giubbotti di pelle, un autoradio, 2 caricabatterie per cellulari e un profumo di marca. A riprendere l'intera dinamica, alcune telecamere in zona, le immagini hanno permesso alla polizia locale di risalire all'identità del presunto ladro. Le riprese mostravano l'uomo, già con molti precedenti, colpire con una bottiglia ripetutamente i finestrini e il parabrezza, nonostante la presenza di numerose persone e veicoli in transito. Sarebbe responsabile di colpi messi a segno anche a Udine ai danni di imprese del tessile, la banda sgominata dalle indagini dei carabinieri piemontesi. Un telefonista con base a Napoli, fingendosi incaricato del ritiro della merce nei magazzini dell'azienda, telefonava a diverse società per individuarne una che avesse effettivamente una pronta consegna programmata. A quel punto entravano in azione i finti corrieri che, con casacche di note società di logistica, si facevano consegnare dagli ignari dipendenti la merce, tra cui abbigliamento, occhiali, oggettistica da reimmettere poi nel circuito dei mercati rionali della città campana. In questo modo il gruppo avrebbe compiuto i colpi una ventina, oltre che a Udine, nelle province di Verbania, Como, Torino, Varese, Milano, Lodi, Bologna, Rimini. 14 in tutto gli indagati, 7 appena arrestati. L'improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la sua RAI, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel consiglio di amministrazione, dando voce a chi con il proprio lavoro fa vivere quotidianamente il servizio pubblico. Così la presidente RAI Marinella Soldi e l'amministratore delegato Roberto Sergio si sono fatti interpreti del cordoglio del consiglio di amministrazione, del direttore generale e di tutti i lavoratori RAI per la morte di Riccardo Laganà. Finte sparatorie e inseguimenti, il set cinematografico messo in piedi da una grossa produzione americana a Trieste si sposta, dove forse creerà qualche disagio in meno alla città. Prima infatti era Ponte Rosso, ora in Piazza Unità. Turisti incuriositi. Sventolano le bandiere di tutto il mondo in Piazza Unità. Il Palazzo della Regione è pronto ad accogliere un vertice della NATO. Sembra tutto vero, ma è solo il set del film d'azione Heads of State, che dopo le riprese in Porto Vecchio e in Ponte Rosso si sposta nel cuore della città. Una produzione che suscita curiosità e provoca qualche disagio ai tanti turisti, molti scesi anche dalla crociera, e ai triestini a causa delle modifiche al traffico e dei divieti di parcheggio. Il centro non riusciamo a vederlo. Vedremo il film, vedremo la scena del film mentre la girano. E non è che seguo molto i film, e allora vederne uno in città a volte stimola la curiosità. Sembra che ci sia tantissima gente dedita, quindi no, mi fa molto piacere, devo dire. Altro che disturbo. No problem. Decine di camion della produzione sostano nell'area, centinaia gli addetti impegnati sul set, un po' sorpresi dalla bora che fa cadere le finte barriere del posto di blocco all'ingresso della piazza. Nella troupe lavorano da più di un mese 500 persone che generano un indotto importante. Chiara Valenti Omero, coordinatrice della Film Commission. È stata sicuramente un'invasione abbastanza corposa rispetto a quelle che sono le normali produzioni cinematografiche che abbiamo a Trieste, per cui ci rendiamo conto di questo, ci dispiace, però insomma inevitabilmente le ricadute che ci saranno sul territorio saranno tali che forse insomma giustificheranno un po' di disagi. I negozi delle strade trasformate in set sono chiusi, gli esercenti sono stati risarciti, aperte le saracinesche dell'area limitrofa. Persone mi chiamano, mi chiedono se sono aperto, se possono venire. Hanno gli appuntamenti, però non trovano posto, arrivano in ritardo. La macchina del presidente degli Stati Uniti continuerà a correre tra le vie del centro tra spari e incidenti fino all'arrivo rocambolesco in Piazza Unità, che si girerà sabato. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Si parlerà di ghiacciaie, grotte glaciali questo pomeriggio alle 18 alla Biblioteca Venier della Polse di Cognes a San Pietro di Zuglio, con l'intervento in programma nel cartellone del 34esimo agosto archeologico di Gian Domenico Cella, membro del gruppo Grotte CAI di Novara e del gruppo speleologico Carnico e docente della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. Lo abbiamo intervistato. Visto che ghiacciai in Friuli ce ne sono, diciamo, due, quasi tre, ma piccolissimi, di estensione dell'ordine di un ettaro, poco meno, poco più, mentre io abito nel Novarese, quindi noi abbiamo nei pressi di casa il Monte Rosa, alto 4.500, e spicci metriche a svariati ghiacciai. Quindi nella mia attività speleologica da un quindicennio mi occupo di studiare e esplorare cavità glaciali, cioè all'interno del ghiacciaio. La serata si svolge così, c'è una breve presentazione dei ghiacciai, dove si trovano in Italia, tra cui c'è anche un accenno ai ghiacciai che abbiamo qua sulle Alpi Carniche e Giulia, e poi dove si formano, perché, come si fa a capire se un ghiacciaio è in buona salute, in cattiva salute, e in fondo tratto anche dei ghiacciai sotterranei, così chiamati rock glaciers, di quali ne esistono quasi una cinquantina in Canarnia, Canal del Ferro, tra cui forse il più famoso è quello di Casera Razzo. Qual è lo stato di salute dei ghiacciai del Friuli Venezia Giulia? I micro ghiacciai che noi abbiamo tipicamente sono uno a Sella Nevea sotto il Canin, e quello in uno stato disastroso, perché retrocede, porterò anche un modello di calcolo che mostra come sopravviva per miracolo. Si è molto più fortunati per il ghiacciaio che c'è alla base del Monte Promosio, perché sono ghiacciai piccoli, ma si trovano incuneati dentro la montagna, praticamente si trovano molto riparati, sono esposti a nord. Abbiamo un altro ghiacciaio nelle Alpi Carniche che in realtà si trova in Austria, sotto il Coglia, sulla creta di Chianevate, e anche questo è 15 anni che è lì in equilibrio, qualche anno è anche aumentato di estensione. Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Una serie di laboratori dedicati a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni per trasmettere ai più piccoli la storia, l'arte, la memoria della carne e delle sue genti sono quelli proposti dal Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo, che prendono il via oggi alle 16 con Disegno Creativo, un laboratorio per imparare a rappresentare e colorare con diverse tecniche artistiche piante e ortaggi dell'alimentazione d'un tempo. La partecipazione alle attività è su prenotazione, si può telefonare o mandare una mail a info@museocarnico.it. A Trieste la stazione ferroviaria inaugura Relazioni, mostra di artigianato artistico promossa da Confartigianato. L'esposizione, che racconta le relazioni attraverso 42 lavori delle più diverse botteghe di artigianato artistico del Friuli Venezia Giulia, arriva nel capoluogo giuliano dopo la tappa di Udine. Inaugurazione questo pomeriggio alle 19, poi apertura dalle 9 di domani fino al 29 ottobre. Le opere sono realizzate in legno, ferro, pietra, marmo, ceramica, vetro e mosaico, e consentono di apprezzare lavori di restauro, di legatoria e stamperia, di arte orafa e tessitura, di sartoria e pelletteria. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Bassia Crismancic e Tommaso Vinoni. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da Anna Vitaliani e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.